Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up. Ci sono novità anche su Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e buona domenica a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Chi salverà il mondo dal fondamentalismo? E chi salverà il calcio dalla noia? Voi mi direte, ma che c'entrano questi due temi così distanti? Ma un politologo inglese e un critico letterario tedesco hanno lanciato in questi giorni due provocazioni diversissime, una più seria, l'altra più frivola, che secondo noi meritano entrambe di essere discusse. Cominciamo dalla prima. Alla crescita zero della popolazione nei paesi più sviluppati si contrappone, non da oggi, il boom demografico non tanto delle nazioni più povere, quanto delle sette religiose più radicali e tradizionaliste. Un'ondata di fanatismo rischia di sommergere le società liberal-democratiche dell'Occidente. E non avremo neppure la consolazione domenicale di una bella partita, perché il gioco del calcio è sempre più prigioniero delle tattiche, sempre più prevedibile e ripetitivo, non riesce più a sorprenderci e a divertirci. Ma sono fondati questi gridi d'allarme oppure peccano di catastrofismo? Ne parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma prima di tutto ascoltiamo che cosa prevede il menù di oggi. Inghilterra, i fondamentalisti fanno più figli. Saranno loro i nuovi padroni del mondo. Francia, visti dagli altri. Critiche entusiastiche per La bellezza e l'inferno di Roberto Saviano. Germania, per un pugno di gol, addio creatività. Al calcio moderno manca la fantasia. Inghilterra, dimmi che colazione fai e ti dirò chi sei. Che fine ha fatto l'English Breakfast? Avrete riconosciuto l'inconfondibile voce di Stevie Wonder nel brano Isn't She Lovely, una canzone scritta nel 1976 per la nascita della figlia Aisha. E la canzone tra l'altro inizia anche proprio con un pianto della bambina. È proprio di bambini che nascono, di nuove vite che vengono al mondo, parleremo in questa parte della Finestra sul Cortile. In realtà sono sempre più rari i cittadini e le cittadine del mondo sviluppato che festeggiano la nascita di un bebè, di lovely per la maggioranza di loro, di noi, e bianchi e opulenti, c'è soltanto il proprio egoismo. E proprio su questo tema del ristagno delle nascite nel mondo sviluppato e invece della crescita esponenziale nelle sette religiose fondamentaliste si occupa un articolo di Caspar Melville sulla rivista The New Humanist, una rivista inglese, diciamo così, ultra laicista, che sostiene che i fondamentalisti saranno presto i padroni del mondo. Caspar Melville prende spunto da un libro di un politologo del Birkbeck College di Londra, Eric Kaufman, intitolato Shall the Religious Inherit the Earth? Cioè, i religiosi erediteranno la terra? E la risposta è naturalmente affermativa, cioè al termine di una disamina in cui prende in considerazione dei dati, delle proiezioni demografiche, l'autore Kaufman conclude che appunto le sette più fondamentaliste in campo religioso, da quelle cristiane, anabattiste, dagli Amish americani fino agli islamici, ma passando anche attraverso per esempio i fondamentalisti religiosi israeliani, sorpasseranno enormemente insomma le nascite invece delle popolazioni del mondo diciamo così laico liberal democratico. Di fatto, dice, il tasso di natalità nel mondo sviluppato dell'Occidente è del 2,1%, e quindi è al di sotto del livello di sostituzione della mortalità, mentre invece tra i fondamentalisti siamo tra il 5 e il 7,5%. Naturalmente non tutte le sette si equivalgono secondo l'autore di questo studio, perché il fatto che gli Amish si riproducano più di altre sette, di altri gruppi sociali, non, ovviamente non mette a repentaglio la democrazia. Più preoccupante ovviamente è la crescita di certe sette, come per esempio appunto i fondamentalisti ebraici in Israele, che secondo appunto il politologo britannico potrebbero nel 2050 diventare la maggioranza nello Stato di Israele, e poi invece i fondamentalisti islamici, che secondo gli scenari più pessimistici potrebbero trasformare l'Europa in quello che Oriana Fallaci chiamava l'Eurabia. Ma su questo punto Kaufman è abbastanza prudente, perché dice in realtà il pericolo non è così grave. Cioè l'immigrazione musulmana in Europa nel 2050 raggiungerà tutt'al più il 10-15%, e non è detto che siano tutti fondamentalisti. Ma intanto salutiamo l'ospite che abbiamo al telefono, il professor Renzo Guolo, che ringraziamo di essere qui con noi. Buona domenica. Buona domenica a voi. Renzo Guolo insegna sociologia dei processi culturali all'Università di Padova ed è autore di studi sull'Islam e soprattutto sui problemi dell'immigrazione islamica. Ecco, lei condivide questo pessimismo di questo politologo inglese, che tra l'altro non è nemmeno un demografo di professione? Beh, direi che c'è una enfatizzazione forse eccessiva. Cioè, è vero che i gruppi, come chiamiamo, settari o fondamentalisti, tendono a fare più figli, nel senso che non genericamente per l'aderenza o l'adesione a principi religiosi non concepiscono contraccezione e quindi ritengono che sostanzialmente Dio sia il vero pianificatore delle nascite, in questo senso come forma di manifestazione della volontà divina. In secondo luogo dobbiamo tenere conto che c'è un peso relativo dei diversi gruppi all'interno dei diversi contesti. Insomma, come ha già detto lei in precedenza, può preoccupare assai poco che gli Amish facciano più. Sì, o gli anabattisti. Certo. Poi anabattisti è una coppia che vive a Manhattan, questo in dubbio. Il problema si pone laddove invece ci possono essere visioni religiose forti che diventano patrimonio comune di un numero maggiore di persone, e questa visione ispira poi la società, e questo può essere il caso di alcune società o spezzoni di società all'interno del mondo islamico o anche in Europa. Ma se dovessimo restare per esempio al caso europeo, vediamo che funzionano anche meccanismi inversi, nel senso che c'è anche l'altra possibilità, non si deve dare per scontato che vivendo in Europa, ad esempio, molte persone che pure hanno una forte fede religiosa invece non si incontrino con elementi secolarizzanti e modifichino i loro comportamenti. Ecco, su questo punto Kaufman invece è piuttosto scettico, dice che questa idea che dopo tutto la modernità è destinata ad essere egemone, quindi anche a conquistare queste nuove leve di immigrati, secondo lui è una speranza infondata, e che in realtà c'è questo bisogno di identità forti, per cui anche tra le nuove generazioni poi alla fine fanno breccia le predicazioni. Questo è indubbio, bisogna vedere diciamo la dimensione del problema, perché è evidente che questi sono due aspetti. Cioè, noi non possiamo più pensare che la società occidentale sia come si dava per scontato almeno in quella europea, largamente o ampiamente secolarizzata. Il tema del bisogno di identità riscopre vie che si ritenevano in qualche modo ormai precluse fino a qualche decennio fa, che siano vie di identità etnica o religiosa stessa. Dirò che però noi osserviamo, per esempio, se pensiamo all'immigrazione islamica in Europa, anche una serie di comportamenti che invece vanno anche in senso contrario, cioè, oppure persino in paesi come l'Iran, dopo 30 anni di rivoluzione islamica, noi siamo passati da un tasso di fecondità che vedeva 6 figli per coppia a 2, nonostante ci sia un regime islamico. Evidentemente in quel caso la dimensione così politica e ideologica ha accentuato una sorta di rivoluzione silenziosa femminile che si è concretizzata nella diminuzione delle nascite anziché nell'aumento. Quindi anche in Europa non è detto che questo processo avvenga, anche se, diciamo, è una delle linee di tendenza, ma prima di invertire dati demografici così strutturati come quelli che abbiamo adesso, ci vuole, cioè sarà mai il fenomeno migratorio complessivo che fa viaggiare anche persone con identità non fondamentaliste che possono mutare gli equilibri demografici. Ecco, secondo lei c'è bisogno di nuove moschee in Italia, non bastano quelle già esistenti? Questo è un problema complesso. Il bisogno viene manifestato a livello ovviamente locale, ma questa è una questione che poi va valutata di volta in volta. Il problema per quanto riguarda le moschee è che per quanto riguarda l'Islam è una classica religione senza centro, cioè non è un'autorità gerarchica. Certo, non hanno un papa, ecco, diciamo. Esatto, e ogni gruppo tende in qualche modo a proporre la propria moschea sul territorio, perché è difficile che persone che hanno un'interpretazione della fede oppure un'appartenenza etnica differente frequentino le stesse moschee. Questo è difficilmente comprensibile in Occidente, proprio perché siamo abituati invece a modelli di autorità, soprattutto all'interno del mondo cattolico, certo, in cui c'è il Papa. E quindi è tutto più complicato. Bene, noi ringraziamo il professor Guolo, buona domenica e a presto. Grazie a voi, arrivederci. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani di successo all'estero ci porta questa domenica a Parigi, sulle pagine del settimanale francese Le Nouvel Observateur si parla del nostro Roberto Saviano, di cui l'editore Robert Laffont ha appena pubblicato la traduzione francese di La bellezza e l'inferno, La beauté et l'enfer, appunto. E su questo libro si sofferma Grégoire Le Ménager con una recensione a dir poco entusiastica. Scrive il giornalista del Nouvel Observateur: la camorra credeva d'averlo condannato a morte, invece lo ha condannato all'eroismo. L'autore di Gomorra continua a immergere la sua penna nelle piaghe della democrazia e a denunciare qui il terrorismo che non parla arabo ma alimenta l'economia globale nell'indifferenza generale. Il giornalista francese addirittura lo paragona a Camus, perché dice: questo giovane dalla barba incolta ha un'ossessione principale, la verità, proprio come l'autore de L'Homme Révolté. La finestra sul cortile. Nino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Brano della canzone La leva calcistica della classe 68, cantata da Francesco De Gregori, canzone del 1980 che fa parte dell'album Titanic, che racconta la storia di un provino effettuato presso una squadra di calcio da un ragazzo di 12 anni che vuol fare il calciatore. Quindi coraggio e fantasia sono le doti che De Gregori indica come indispensabili per un buon giocatore di calcio. Ma proprio la fantasia è quella che farebbe difetto al calcio contemporaneo, secondo il critico letterario tedesco Hans Ulrich Gumbrecht, che è stato intervistato dal settimanale tedesco Die Zeit. Gumbrecht insegna all'Università di Stanford, è uno dei pochi intellettuali al mondo che si occupano sul serio di sport. Ma che cosa dice Gumbrecht? Dice: ma il calcio moderno si è immolato sull'altare della perfezione, ha sacrificato alla precisione tattica i sempre più rari momenti di fantasia. I calciatori ormai sono tutti tecnicamente ottimi, molto versati in difesa, ma più la prestazione collettiva si perfeziona, meno l'azione del singolo riesce ad appassionare. E neanche i fantasisti africani possono cambiare le cose, come sperava chi si è appassionato negli ultimi mondiali alle squadre del continente nero, perché ormai i migliori calciatori africani vengono subito presi fin da giovanissimi nei club europei, e così anche per loro il destino è quello di invecchiare in una squadra tanto vincente quanto noiosa. Insomma, un'analisi molto pessimistica, diciamo catastrofista. Ma è fondata questa diagnosi di Gumbrecht? Beh, lo chiediamo all'ospite che abbiamo in linea da Londra, John Foote, che salutiamo. Buona domenica, John Foote. Buona domenica. John Foote è uno storico inglese dell'University College di Londra che ha scritto un libro sul calcio italiano, un libro molto fortunato che si chiama per l'appunto Calcio, storia dello sport che ha fatto l'Italia, che parte dal 1898, arriva fino al 2007, insomma, poi citando Pasolini, Brera, Arpino, i nostri scrittori che si sono occupati di calcio. Il professor Foote è un tifoso dell'Arsenal come Nick Hornby, ma insomma ci accompagna in questo viaggio attraverso le storie del nostro calcio, dai tempi di Meazza, Rivera, Mazzola, Maradona, fino allo scandalo di Calciopoli. Ecco, professor Foote, ma lei condivide questa analisi di Gumbrecht così pessimista? Lui salva solo praticamente Lionel Messi e Andrés Iniesta, i due calciatori del Barcellona. Sembra che tutti gli altri non siano in grado di sorprenderci e di farci divertire. C'è molte cose di verità in questa analisi. Anche fino agli anni 70-80 la velocità del gioco, l'organizzazione tattica, l'idea di sopprimere lo spazio, tutto questo schiaccia molto i giocatori, quelli un po' che non corrono, quelli con più fantasia. E quelli di talento, diciamo. Sì, giocatori come Mario Costo, che in questo calcio di oggi non avrebbe spazio perché correva pochissimo, però cambiava le partite. Però ecco, esatto, colgo l'occasione, diciamo, per ricordare che proprio questa domenica scorsa ci ha lasciato un grande giornalista e un grande collega che si chiamava Edmondo Berselli, che ha scritto un libro straordinario, Il più mancino dei tiri, che era proprio dedicato a Mariolino Corso, un giocatore eccentrico, no, che giocava fuori dagli schemi e sorprendeva i portieri. Sì, esatto, e anch'io mi è venuto in mente quel libro perché sì, è un'analisi perfetta di questo scomparso dei giocatori magari un po' non proprio atleti ma geniali. E questo è vero, questo è vero, questa è un'organizzazione del gioco, è assolutamente fatto così. Poi c'è il controesempio, che non è solo Messi, che lui poi è un esempio fortissimo, c'è il controesempio di molti giocatori che hanno ancora questa fantasia. Però per esempio, la velocità, ecco, del gioco, sì, che la velocità del gioco è quella che schiaccia, dei spazi schiacciati, credo che questo è un problema molto, che non andrà via, perché non è che diventerà più lento. Ho capito, quindi non c'è speranza. Ecco, ma per esempio questi giocatori, per esempio, non so, Dominique Adia o Appia, oppure El Babacar, quello che gioca nella Fiorentina, del Senegal, insomma, ma questi non è vero che vengono in qualche maniera disciplinati e ridotti in questi, imprigionati in questi schemi, e quindi perdono il loro slancio originario? Sì, credo. credo di sì, credo sia inevitabile nel calcio e in business, non si può permettere di lasciare troppo spazio all'individualità. Ci sono Cassano, un esempio fortissimo secondo me, di un giocatore che nonostante tutto ha questo fuoco geniale, e questo cambia la partita, i tecnici capiscono questo, allora non possono toglierlo perché non corre, non corre indietro, non sopprime gli spazi, però la tendenza generale è di avere 10 giocatori o 10 e mezzo che fanno quello. E poi la partita diventa una serie di falli, una serie di esterismi e così via, e non è più una partita molto interessante, secondo me. Questo è un problema generale per tutto il calcio, secondo me, non solo in Italia, tutto il calcio mondiale, no? Il calcio mondiale che diventa così, e non è solo il problema di giocatori che vengono in Europa, ma diventerà così anche negli altri paesi. Non so come si può fare, fare che campo è il doppio, non so, qualcosa così, qualcosa di drastico dovrebbero fare. Ecco, in questi giorni si torna a parlare dello scandalo di Calciopoli. Secondo lei Moggi è veramente il centro del sistema, il vero colpevole, o solo un capro espiatorio in un mondo dove controllori e controllati si danno del tu e quindi in qualche maniera è un sistema da cui non si può sfuggire? Ma c'era un sistema, questo è un sistema di controlli sulle partite, non totali ovviamente, perché le partite è una cosa pubblica, allora è difficile controllare completamente tutto quello che succede. C'era un sistema, secondo me al centro di quel sistema c'era Moggi e alcuni altri, ma chiaramente c'erano dei prassi generalizzati di cercare di influenzare le partite attraverso arbitri, disegnatori, che erano una cosa abbastanza generalizzata. Non vuol dire che tutti erano colpevoli nello stesso modo, perché quello diventa poi che andava tutto bene. Sì, che tutte le vacche sono grigie. Ecco. E poi lei parla al passato, vuol dire che non è più così, che siamo usciti da quel... Secondo me è cambiato dopo Calciopoli, il sistema non è assolutamente non è come era durante quel periodo lì di continui contatti fra arbitri, disegnatori, manager, dirigenti e così via. Quello era diventato macissimo, quel sistema, verso quel punto. È chiaro che ci sono pressioni, ma ci sono sempre stati pressioni. Certo. Quindi avremo un calcio lì è cambiato drasticamente. Quindi avremo un calcio più pulito, ma difficilmente un calcio più divertente. Noi ringraziamo il professor Foot, buona domenica, a presto. Grazie a voi. Restiamo in Inghilterra, ma passiamo dal calcio alla tavola. Sulle colonne del Times troviamo un curioso articolo di Cole Moreton che si domanda che fine abbia fatto la colazione all'inglese, il full English breakfast a base di salsicce, uova, pancetta e toast imburrati. Secondo Moreton, soltanto l'1% della popolazione comincia la giornata con una colazione così abbondante di grassi rispetto agli anni 50, quando almeno la metà degli inglesi non poteva iniziare la giornata senza l'eggs and bacon di Prammatica, una specie di icona britannica come l'Union Jack. Ma che cosa è successo nel frattempo? È molto semplice, c'è stata l'immigrazione e la società britannica è diventata una società multiculturale, per cui ci sono delle signore come per esempio una delle intervistate, tale Sade, di origine un mezzo irlandese, maltese, giamaicana, la quale quando va dal nonno mangia il cavolo e la pancetta, quando va da un'altra nonna mangia il pollo, il riso e i piselli. Altro che continental breakfast, qui siamo al global breakfast, anche la prima colazione è diventata meticcia. E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile, ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Pietro Lacorte in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buona domenica a tutti.